Partendo dagli Exit Poll, un risultato molto positivo di Michele De Pascale del centro-sinistra. Onestamente, con dati così degli Exit Poll mi sembra difficile che il dato cambi, poi ovviamente è giusto vedere i voti reali, però insomma la forbice mi sembra molto ampia, corrisponde a un'aspettativa positiva che avevamo, sia diciamo per la forza del candidato, la sua credibilità, la sua autorevolezza, sia perché si è costruita una coalizione larga di centro-sinistra, devo dire con un forte spirito unitario e anche una condivisione programmatica, cioè non un'alleanza contro, ma un'alleanza per un programma condiviso. E, fra l'altro anche Michele è stato candidato con il Partito Democratico, che l'ha candidato subito con un voto unitario di direzione regionale, lo stesso giorno in cui Stefano si è dimesso per andare al Parlamento europeo, e quindi tutti elementi che sono stati importanti, e poi certamente il buon governo della giunta uscente, di Bonaccini, di Priolo, della squadra che ha guidato la regione fin qui, perché quella squadra ci ha portato nel modo migliore a questo appuntamento elettorale. L'affluenza però è un po' bassa. Ma questo sarà un tema su cui ragionare, vedremo anche il dato definitivo. Penso ci sia anche un tema di copertura mediatica, in particolare nazionale, delle elezioni, e anche il fatto che il risultato era dato sostanzialmente per scontato, e quindi credo hanno pesato anche questi elementi. Certamente un tema di come rafforzare il rapporto fra politica, istituzioni e cittadini è un tema che abbiamo tutti, ecco. Penso che dobbiamo essere capaci anche di comunicare una politica seria che parla dei problemi, che non litiga inutilmente, ma appunto visti i dati li approfondiremo anche meglio, capiremo anche chi è stato più punito dall'astensione. Pensavate ad una forbice già tanto ampia fin dai primi exit poll? Io sinceramente sì, nel senso che ho sempre sentito un clima molto favorevole a Michele al centro-sinistra. Sull'Emilia Romagna ho sempre stato sicuro, ovviamente c'è sempre preoccupazione di sbagliarsi, ma diciamo che sì, per quanto mi riguarda sì.